In questo momento, mentre vi parliamo, ci sono fiamme nei dintorni della Casa Bianca. Mentre siamo al sesto giorno di proteste dopo l'uccisione di George Floyd da parte di un agente a Minneapolis, proteste che si fanno sempre più dure e che hanno spinto una quarantina di città americane ad imporre il coprifuoco. Una fase tesissima in un'America nella quale anche l'allerta per Covid-19 resta molto alta, dove si teme tra l'altro che le manifestazioni di queste ore portino a vanificare i tentativi di contenere il virus. Intanto l'Italia si prepara alla riapertura dei confini regionali a partire da dopodomani, mentre le precauzioni della Grecia sugli arrivi dalle regioni italiane più a rischio manda su tutte le furie il ministro degli esteri e il presidente del Veneto. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want at any old time. I'm free to do what I want at any old time. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno per chi c'è questa mattina, chissà quanti di voi stanno facendo un ponte, per quanto non è che ci si possa muovere molto, solo all'interno della regione, almeno fino a dopodomani. Ci siamo, sono le 6:30 minuti, è lunedì 1 giugno appunto. La task force di questa mattina è composta da Carmelo, Lauricella in regia, Anita Panizza e Giorgio De Luca in assistenza e in redazione, insieme a Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ina, Francesco Saraffo. E voi, la vera task force, quelli che danno forza a questo programma con l'ascolto ma anche con le vostre voci, al 349-238-6666, vi aspetto. Allora, che giornata è? Adesso arriveremo a tutte le questioni italiane che hanno a che fare con Covid-19 e sicuramente ieri hanno fatto discutere le parole di Zangrillo, che dice che il virus clinicamente non esiste più. Poi ne parleremo di nuovo alle 8:20 con un esponente del comitato, il famoso comitato tecnico scientifico. E poi tutta questa storia, spezzeremo le reni alla Grecia, che chiude i confini, si è detto due giorni fa. In realtà non li ha mai chiusi, non l'ha mai pensato, ha semplicemente detto che le persone che vengono dagli aeroporti di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, adesso mi ricorderò anche la quarta regione, si devono sottoporre a un test quando arrivano. Di fatto la Grecia fa quello che vuole fare Solinas. Quindi non è... tutto questo cinema, insomma, forse è un po' eccessivo, francamente. E però l'apertura non può che essere dedicata a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Molti stanno paragonando le proteste di oggi, le proteste che si stanno vedendo in queste ore, a quelle del 68. Sono molto, molto dure, e molto dure anche le parole del presidente americano. Sentiamo qualche passaggio audio che forse può dar la misura, no? A Denver. Spari contro la folla, un 19enne che perde la vita. In New Jersey la polizia manifesta in realtà in solidarietà con George Floyd. No! No! No! No! No! No! No! No! ancora, forse abbiamo quelle, forse qualcuno di voi l'ha vista l'immagine, è veramente impressionante quello che è successo a New York ieri, nelle scorse ore, nelle quali un'auto della polizia, a un certo punto dei manifestanti arrivano, no? Mettono una transenna davanti all'auto della polizia per bloccarla, arriva un'altra auto della polizia e di fatto entrambe le auto sfondano il cordone, in sostanza investono i manifestanti. Questo solo per darvi qualche pezzo di questo quadro complesso che si va componendo, come vi dicevo, in queste ore, no? Ore nelle quali le cronache ci raccontano della Casa Bianca che spegne le luci esterne, della Casa Bianca, se non assediata, perché poi queste parole sono sempre forti naturalmente, comunque con i dintorni nei quali si accendono delle fiamme, si accendono dei roghi, con 40 città americane in coprifuoco, con il presidente americano che ha dichiarato ieri, se ne sta discutendo molto, no? Che vuole dichiarare terroristi gli antifa. Cosa vuol dire antifa? Vuol dire antifascista, è una frase, un'espressione che si usa anche in Italia, ma insomma non è che è un'organizzazione, non è che gli antifascisti sono un'organizzazione. Caro Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, come stai Francesco? Buongiorno. Buongiorno a voi, molto preoccupato per quello che sta succedendo negli Stati Uniti, molto... molto pesante quello che stiamo vedendo. Sì, decisamente. Insomma, tra l'altro sta sconvolgendo tutto quello che sta avvenendo in America. L'agenda politica americana viene sconvolta, negli ultimi mesi è stata sconvolta continuamente, no? Prima con le primarie americane nelle quali ci si aspettava la vittoria di Sanders e ha vinto Biden, poi il coronavirus naturalmente, no? Che ha cambiato le carte in tavola, e adesso questa vicenda che ricambia le carte in tavola, ma che soprattutto crea una grandissima preoccupazione. Che quadro identifichi, che quadro vedi, Francesco? Allora, noi partiamo da un presupposto, che tutti questi cambiamenti d'agenda stanno avvenendo nell'anno delle elezioni presidenziali, che sono ormai a pochi mesi di distanza, quando Biden e Trump si sfideranno. Questo ovviamente, diciamo, in un presidente maverick, un presidente un po' diciamo abituato a comportamenti irrituali come Donald Trump, ovviamente complica ancora di più lo scenario, e la prova sono il modo in cui ha reagito al coronavirus, che è costellato da gaffe e da battaglie campali abbastanza surreali, come quella per l'idroclorochina, la cura miracolosa, al bevete disinfettante, sino a guerre senza quartiere contro la Cina, proprio nel momento in cui si chiede, diciamo, collaborazione e unità nel mondo. Questa partita, la partita George Floyd, nasce fra l'altro nel contesto delle polemiche che avevano coinvolto Biden, che qualche settimana prima, sembra veramente un secolo fa, disse: un nero non può votare Trump, e questo, diciamo, fece arrabbiare la comunità afroamericana. Quello che sta succedendo oggi ovviamente ricambia ulteriormente le carte in tavola dentro il dibattito presidenziale, ma alza a un livello enorme la tensione sociale in un paese, gli Stati Uniti, che sono il più colpito dal coronavirus, e che tra l'altro è una sorta di effetto collaterale, ma noi siamo qui che parliamo di distanziamento sociale e sì, c'è mezza America per strada a protestare. Io non so, diciamo, se questo porterà addirittura a una recrudescenza del virus. Può darsi, qualcuno lo teme. Qualcuno lo teme, tra l'altro. Il punto centrale, però, ovviamente, è quello che sta succedendo. Ecco la questione razziale negli Stati Uniti, sì, che ha raggiunto livelli di guardia veramente impressionanti. Tu hai citato New York, io ho visto pochi minuti fa le immagini abbastanza scioccanti di un camion a Minneapolis che tenta di falciare la folla dei protestanti, delle persone che stanno protestando, dei manifestanti. Certo. Sono situazioni oggettivamente che danno l'idea di una società americana veramente frattorata in molteplici parti, e quando succedono queste cose dopo un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, nel contesto di una crisi economica come quella che gli Stati Uniti stanno vivendo, 40 milioni di disoccupati. Non arriviamo alle elezioni, diciamo, di novembre nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi, sì. Poi, tra l'altro, bisogna vedere quanto poi queste proteste effettivamente siano anche collegate a quello che sta succedendo, all'emergenza economica da Covid-19, che, lo ricordiamo, ha colpito moltissimo, ha colpito la popolazione afroamericana di più dal punto di vista sia economico sia dal punto di vista sanitario. Posso aggiungere una cosa? Sì, prego, prego Francesco, vai. Se tu guardi la mappa degli Stati Uniti, dove si stanno spostando i focolai del virus, si stanno tutti spostando negli stati del sud degli Stati Uniti, stati del sud-est degli Stati Uniti, che sono gli stati a prevalenza a popolazione afroamericana, quindi diciamo a problema si aggiunge problema, come dice la vita. Ovviamente. Allora, la questione Covid-19, da cosa iniziare? La questione del Covid-19 in Italia è da cosa iniziare? Allora, c'è stata tutta questa polemica nel fine settimana sulla Grecia, insomma, le cose stanno come ve le dicevo poco fa, e però l'idea che chi arriva dal Veneto possa ricevere, possa vedersi fare il test e farsi comunque una settimana di quarantena, e nel caso fosse positivo 2 settimane di quarantena, beh, a Luca Zaia proprio non va giù. Pensare che si sono ridotti a fare gli editti per escludere il Veneto, che ha legami a doppio filo con la Grecia, ma io lo trovo assolutamente allucinante. Mi chiedo gli operatori greci cosa pensino in questa fase, perché i turisti non è che vengono loro da noi, sono noi che andiamo da loro, quindi sappiano che non ci vedono più. Ancora Zaia. A meno avessero chiesto informazioni, io dico, il Veneto è a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le carte. Poi magari se vogliono andiamo a fargli noi, chiamo il professor Crisanti, un giro di tamponi a casa loro e facciamo una prova. E qua la Grecia, però ricordiamocelo ragazzi, che paga per così dire il fatto che ha deciso, se vogliamo lo abbiamo raccontato anche qua, per dimostrare anche la sua affidabilità alla comunità internazionale dopo le difficoltà vissute, di varare un lockdown strettissimo il lockdown della Grecia, e quindi è anche comprensibile che si vogliano porre, per così dire, di fronte alla comunità come un paese quasi covid free e quindi un paese nel quale andare a far vacanza. Questo è. Intanto, ieri il Zangrillo del San Raffaele di Milano, ospite di Lucia Annunziata, ha detto un paio di frasi che hanno fatto drizzare le antenne a tutti e fatto imbestialire altri. Sentiamolo, va. Io, se vuole, le dico la verità, gliela dico ufficialmente, in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Allora, oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese, l'inizio di giugno, per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus, praticamente dal punto di vista clinico, non esiste più. Dice Alberto Zangrillo, che guida la terapia intensiva del San Raffaele di Milano, la carica virale è infinitamente più bassa. Questo lo dice l'Università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell'Istituto di Virologia, professor Clementi, lo dice insieme alla Emory University di Atlanta, professor Silvestri. Tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di un mese, 2 mesi fa. E qua si scatena il rissone tra medici con Matteo Bassetti di Genova, che nei giorni scorsi ha detto così che il virus ora potrebbe essere diverso, non ha la stessa potenza di fuoco, quindi concorda con Zangrillo, Locatelli e Consiglio Superiore di Sanità. Sorpresa e sconcerto per le parole di Zangrillo. Luca Richeldi del Comitato Tecnico Scientifico, che sarà tra l'altro ospite nostro alle 8:20, il virus circola ancora ed è sbagliato dare messaggi fuorvianti. Guarda Francesco, nemmeno ti coinvolgo in questa cosa perché francamente non non essendo tu uno scienziato, non essendo io uno scienziato, ci atterremo, oggi sentiremo le parole di Richeldi, no? Anche perché diciamo noi col popcorn, mentre gli scienziati si scannano tra di loro, quindi cioè, quando Busioni diceva che la scienza non era democratica, diceva una fake news. Questo stanno discutendo grandemente, sentite Brusaferro per esempio dell'Istituto Superiore di Sanità. Tradizionalmente l'autunno e da ottobre in poi è il tempo in cui comincia la stagione in cui le infezioni delle altre vie respiratorie si diffondono. È la stagione in cui è più probabile, perché si riducono le ore di sole, la gente comincia a ridurre la sua attività all'aperto, quindi rimane in ambienti confinati e la probabilità di diffusione per via aerea delle infezioni altre vie respiratorie aumenta. Allora è chiaro che tanto più ti avvicini alla stagione dove questo tipo di infezioni si verificano, tanto più puoi andare incontro a una probabilità di maggior diffusione. La famosa, diciamo, ipotesi di una seconda ondata è legata un po' a questo tipo di caratterizzazione. Oh, adesso ci torniamo sulle questioni di Covid. Prima però, la vicenda della magistratura, caro Francesco Cancellato, e questo è un temore, cioè non ci fosse stata la pandemia, questo sarebbe stato il grande tema di queste ore. Ieri Luca Palamara era ospite, insomma quello che in questi giorni è stato un po' dipinto come l'uomo nero, dalle cui chat emergono tutti questi contatti, questi orientamenti per decidere chi andrà in quale posto e anche le parole contro Salvini. Sentiamolo qua, ospite di Giletti, proprio sull'attacco a Salvini. Che ci fosse un particolare dibattito politico interno alla magistratura su quel tema è la verità, il che non significa che quell'espressione, e che come ripeto oggi è un'espressione impropria, abbia in qualche modo però non capisco, lei un determinato uomo... l'indagine. Però lei... Ancora Palamara. Di area di destra in quel momento. Cioè, io, di centrodestra, allora, magistrati... non è la sua. Dovrebbe essere più. Perché dice attaccate comunque Salvini? Perché c'era evidentemente un'interlocuzione in quel momento, sia in ambito consigliare che in ambito. Associativo, dove c'era il problema della tutela dei magistrati che svolgevano le indagini, era quel periodo, e quindi era quello in quel contesto in cui Salvini è venuta dice... fuori quella frase dicendo però i magistrati debbono essere tutelati. E ancora Palamara sul suo ruolo e sul tema delle correnti, sentiamo. Su tanti giornali si parla di una rete di Palamara, di un Palamara che riesce ad arrivare dappertutto. In realtà io più semplicemente direi che il mio ruolo era quello di mediare all'interno delle singole correnti. Il Consiglio Superiore della Magistratura è il luogo dove necessariamente occorre realizzare una mediazione per che si possa nominare un determinato dirigente o un ufficio. Il traffico, poi Francesco Cancellato, ti voglio su questo, è una tua idea, che idea ti sei fatto? Mattino. Allora Francesco, che ti pare di questa vicenda che ancora non ne abbiamo parlato, non ci siamo ancora sentiti da quando esplosa? Ma io provo a smentirti, nel senso che tu prima hai detto... Se non ci fosse stato il coronavirus, se non ci fosse stato la caduta fuori, questa sarebbe sicuramente la notizia del giorno. Diciamo che non è così, perché quando il caso Palamara è esploso mesi fa, con le dimissioni di buona parte dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, con una bufera che tra l'altro non so se ti ricordi, ricordiamo la vicenda diciamo legata alle nomine delle procure che controllavano altre procure e le cene con Lotti e via dicendo. Ecco, è un caso che fondamentalmente è andato sotto silenzio nel giro di 5 minuti, sul quale il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che è Sergio Mattarella, non ha ritenuto doveroso che spendere 2 parole, e che in realtà assomiglia a una specie di, come dire... Una resa dei conti, volevi dire. Grande, ma non solo resa dei conti, come un grande scoperchiamento di quello che è la magistratura in Italia da un punto di vista, o meglio, di come la magistratura in Italia è un potere non immune agli stessi vizi che noi abbiamo visto, ad esempio, nel potere politico, quindi correnti, quindi magistrati che nominano magistrati amici in funzione del fatto che sono amici in alcuni posti, in cui ci sono dei gran commi, dei tessitori come Palamara che si muovono diciamo in una zona grigia, molto borderline. Abbiamo avuto Tangentopoli, abbiamo avuto Calciopoli, non volevo neanche chiamare Togopoli, non lo so, però l'abbiamo avuta. Ora Calciopoli ha riempito le pagine dei giornali, Tangentopoli ci ha tenuti occupati per 3 anni, della diciamo redazione della magistratura e delle toghe non abbiamo avuto praticamente poca roba, ma tutto sotto il tappeto. Poca e sembra roba, quasi sì, veramente che sia solo il caso Palamara. Ricordiamo, andiamo a vedere, se non sbaglio erano 9 o 10 i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, sì, che sono dimessi quando sono iniziate, sì, diciamo, quando è iniziato questo scandalo. Il Consiglio Superiore della Magistratura sono poche decine di membri, adesso non mi ricordo, l'esame di diritto pubblico l'ho fatto tanti anni fa. Sono poche decine di membri, ma è come se si fosse dimesso metà del Parlamento. Mm. Cioè, diamoci la misura di quello che, sì, è successo allora e di quanto poco ne abbiamo parlato. Sì, è vero naturalmente in queste chat scoperchiano, no? qualcosa di nuovo di questo sistema. Torneremo a parlarne ovviamente in rassegna stampa. Intanto, mentre gli ascoltatori ci chiedono a chi dobbiamo credere su questa storia del virus, cioè a Zangrillo o ai membri del comitato tecnico scientifico, un altro mi dice, siccome uno non è uno scienziato, no, bisogna accettare tutto senza ragionare, se uno dice sì e l'altro dice no, lei a chi crede? Amico mio, io sono fermo qua, non lavoro in una terapia intensiva, non sono un virologo, non faccio sierologici e tamponi, e quindi sinceramente non saprei cosa dire. Abbiamo preso tante di quelle toppe, francamente, anche da queste parti, e l'ho ammesso pubblicamente, ho detto più di una volta, su questo virus, che a questo punto sto qua e registro dal punto di vista della cronaca quello che dice Zangrillo e quello che dicono altri virologi. Intanto voglio salutare Michele Bonizzi, responsabile salute della Croce Rossa Italiana, che non coinvolgerò in questo dibattito. Buongiorno Bonizzi, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e la ringrazio subito per non coinvolgermi. Benissimo, ottimo. Invece la voglio coinvolgere sul tema dei test sierologici. La partenza di questo programma da 150.000 fatto dall'Istat, che ha elaborato, no, il campione sul quale farlo, e voi che poi siete gli operativi, no, che mettete a terra tutto questo. Mi dice come stanno andando le cose, perché so che un po' di gente, un bel numero di persone si è rifiutato, cioè nel momento in cui avete telefonato e avete detto guardi, siamo della Croce Rossa, dobbiamo fare il test sierologico per il campionamento, un po' di gente si è rifiutata. Sì, mi permetta di aggiungere anche il Ministero della Salute, sì, che certo, poi ovviamente, è, certo, sottinteso. Il fulcro dell'attività. Sì e no, nel senso che c'è una quota, l'Istat aveva previsto una quota di circa il 20% di persone che magari non avrebbero voluto sottoporsi, più o meno siamo su questa cifra. La difficoltà è un po', lei sa, lo dico un po' da cittadino, no? Siamo abituati a ricevere tante telefonate di numeri sconosciuti che magari ci offrono e ci propongono cose le più particolari, e allora non rispondiamo ai numeri che appunto vediamo, che non conosciamo. Quindi tante persone le dobbiamo ricontattare, più che ci dicono di no, non riusciamo a parlarci. Cioè, vi trattano un po' come quelli che ti fanno le offerte per l'energia, vuole passare al mercato libero, vuole fare il test sierologico, più o meno. Esattamente, così. Purtroppo credo che siamo passati un po' in questa dinamica, nostro malgrado. La realtà è che poi quando parliamo con le persone l'adesione è quella che l'Istat si aspettava, quindi sufficiente a produrre questo campione di 150.000 provette di sangue. Sì. Bonizzi, c'è una questione che è aperta e che probabilmente può condurre a qualche ulteriore rifiuto, ed è la seguente preoccupazione: se tu fai il test sierologico e da questo test sierologico risulta che hai gli anticorpi, teoricamente devi metterti in isolamento e poi fare il tampone, ho capito bene questo? È così? Diciamo, questa è una cosa che gestisce il sistema sanitario nazionale, sì. Quindi le sanità regionali. Potrebbe, abbiamo visto, no, come sono 21 sanità un po' diverse, meccanismi, organizzazioni differenti, quindi è difficile rispondere in senso globale. Però in linea di massima succede questo. In linea di massima è presumibile che una volta che questi i laboratori del sistema sanitario nazionale cui noi portiamo le provette trovino delle positività e sì. Comunicano il referto, prendano in carico la persona sicuramente cercando di fare un approfondimento diagnostico. Certo, e le giro la domanda a Bonizzi che ci manda Salvatore sì. Da Lecco, guarda, è arrivata proprio adesso. Ho un amico artigiano terrorizzato dal test e dice: se mi trovano positivo mi bloccano di nuovo in casa finché non mi fanno il tampone, e questo tampone arriva, non arriva, quando arriva, è un problema. Ci mettiamo nei panni dell'amico artigiano e sicuramente con sincerità diciamo che la preoccupazione è condivisibile. Noi allo stesso tempo diciamo sappiamo che la tempistica sui tamponi, che inizialmente è stata un po' una delle grandi difficoltà, si è molto ridotta. Sappiamo che le regioni, soprattutto su questo test serologico, si stanno molto, molto impegnando e immaginiamo che ci sia comunque una grande attenzione e capacità di fare questi tamponi velocemente. Sappiamo che il tampone ci mette comunque un tempo tecnico per avere la risposta. Sappiamo anche che questo test sierologico ci dice un po' la storia, cioè non ci dice come il tampone se abbiamo la malattia in quel momento, ci dice se ce l'abbiamo avuta in passato. E sappiamo che queste immunoglobuline cosiddette IgG si sviluppano dopo un po' di tempo, sono quelle che ci si immagina ci garantiranno l'immunità diciamo per sempre dal Covid, così come per le altre malattie. Quindi è improbabile da un punto sì. di vista statistico che avendo le monoglobuline positive che si sviluppano quindi un po' dopo sì. Il tampone anche stesso venga positivo. Comprendiamo anche, no, i direttori dei dipartimenti di cioè. Prevenzione che fanno il loro lavoro e cercano di tutelare la sì. salute pubblica. Allora, chiarissimo, ha ragione. La ringrazio. Grazie a Michele Bonizzi, responsabile di salute della Croce Rossa Italiana. Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Abbiamo ancora pochi secondi, ma non posso non farvi sentire Vincenzo De Luca sugli assistenti civici. Quindi noi vedremo 60.000 persone andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti, è colpa tua, nei vicoli, nei mercati, fra gli stand dei venditori, diciamo, di frutta. Vabbè, ormai è cinema. Carmelo Lauricella, riusci a far sentire al volo Avellino? Noi non siamo Salernitani! In piazza ad Avellino il sindaco che incita i ragazzi che stanno là per la movida, l'assembramento, noi non siamo Salernitani, contro De Luca sostanzialmente, il quale fa dire dall'Agenzia di Protezione della Salute, chiede di verificare che non si siano svolti degli assembramenti pericolosi. E vabbè, un po' di cinema italiano, GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.